Luponer Summer Spurgo. Che puntuale ogni giovedì arriva Luponer Summer Spurgo. Questo è Vanni e Flamira, l'avete ascoltato all'inizio, lo riascolterete poi in radio a settembre, per adesso ci dovete pocciare in questa forma, in questa estate. Abbiamo ascoltato ora gli Urban Heat, una band di Austin, Texas, dedita a post-punk, dark wave, che ha fatto un album intitolato The Tower, che però ancora non ci ha fatto ascoltare, perché ancora deve uscire. Ma noi abbiamo Sanitizer, questo singolo, come anteprima, e l'abbiamo ascoltato insieme, che bello! Così che è bello anche Ossa di Cane. Ossa di Cane è una band senese che fa hip hop, cioè la voce è rap hip hop applicata su musica contemporanea e jazz. Dal loro album, come Madonna si chiama, qualcosa con Re, c'era cioè, di mezzo. Vabbè, comunque io, Ossa di Cane, ascoltiamo il brano Radura, Ossa di Cane. Affogherò nell'alcol, nell'inchiostro nero dell'asfalto. Imparerò a lasciare baci al vento per il mondo e non volere niente in cambio. La strada corre dritta su una rete e tu la tua la vedi bene con un altro, che se starai bene sarà bravo a farlo. Io so solo raccontarlo. Al mondo nasci ricco con i debiti, io ricco di debiti, perso come il tempo speso a chiedersi se è davvero ciò che meriti. Che se muori nero poi ritorni bianco. Che se dici il vero trovi solo il falso. Di per sé qua già uno strazio. Ora levati dal cazzo. Io sono il pericolo, la notte e la paura di una morte prematura. Il sangue secco nella segatura. La voglia di scappare dalla serratura. Siamo fiori secchi nella spazzatura. Con i cuori fritti dentro la tempura. E in fondo non è male questa selva oscura. Che ti ricordi tu della radura. Mi chiedi di me. Sono solo un matto che ha ragione. Lupo Nero Sammersburgo. Dolorosa è il nome di questo progetto, opera di Lautaro Carvajal dall'Uruguay, attualmente però residente in Spagna. Fa sto macello qua, industrial, sperimentale, un po' noise. È la Sons of Traders Records di Berlino, Germania, e ha pubblicato sta cassetta intitolata The Hermit. Da questa cassetta abbiamo ascoltato il brano Under Other Eyes. E invece adesso passiamo in Polonia. Polonia con un po' di metallo, ovviamente ignorante, perché sei dalla Polonia non può che essere altrimenti. Loro sono gli Anti-Flash, fanno black metal, così dicono. Questo è il loro secondo album intitolato Osanna, uscito per Teogonia Records, e da questo album ascoltiamo il brano delicatissimo Funeral Whore. Thank you. Lupo on air, Summer Spurgo. I'm there for this. la discoteca industrial canadese è sempre una soddisfazione. Lui è Rice Fulber, un veterano dei Frontline Assembly, classe 1970, e ha pubblicato da poco un album solista nuovo intitolato Bluzzol. No, no, aspetta, adesso lo scopriamo insieme il titolo di quest'album, perché mo mi impunto, così come se non è che mi scordo sempre le cose come gli ossa di cane, cioè non è che mi scordo, ce l'ho scritta qui. Balance of Fear, eccolo, questo è il titolo dell'album di Rice Fulber, targato 2024, da cui abbiamo ascoltato il brano The Hair. Ora, che ci abbiamo? Ah, beh, l'hardcore rap nostrano, o meglio, strano forte. Questo è Adria The Reject, di Senigallia, ma esule a Bologna, dopo un po' di vicissitudini, finalmente tornato sulle scene con un singolo, un solo singolo, nuovo, intitolato Antiporno, con la produzione di un tale Kike Velasquez, non ho idea di chi sia. Ascoltiamo questo Antiporno, lui è Adria The Reject. Tu ti credi un intellettuale di sinistra, ma fai bocchini col culo. Io ho fatto di medicina e vedo le cose per quelle che sono. Tipo che non sai Pasolini, ma fai bocchini col culo. In un collettivo di stronzi dove non capisce un cazzo nessuno. Diranno che la psichiatria mi ha castrato, ma è stato lo Stato. Lo squalificato ha visto ogni suo amico sistematicamente fottuto. Sai di ingegno inietto poesia nelle vene, cazzo a me. Lo stridere di due carte magnetiche, un coro nelle mie tempie. A me la testa non me la cambi. Ho visto lavorare gli altri per 30 anni e mi ha causato danni. Al mio uccello ho fatto un po' di tutto. Ora giro distrutto, ho scritto chiuso per lutto. Andrò all'inferno con un biglietto senza ritorno. Con tutti i diavoletti che mi scopano intorno. Antiporno! Tu ti senti un grande rapper, io mi sento solo un reject, ecco il conto. Non darti mai per vinto, metti tu il punto se vuoi dare fuoco al mondo. Ma fuori un mondo assurdo e stronzo. E se in fondo ho incominciato per avere degli amici, si schiuderebbe il mio sorriso se bruciaste tutti vivi. Se ti scherniscono tu ridi, perché loro sono tanto più infelici. Antiporno! E se in fondo ho incominciato per avere degli amici, si schiuderebbe il mio sorriso se bruciaste tutti vivi. Se ti scherniscono tu ridi, perché loro sono tanto più infelici. Antiporno! Ho bisogno di affetto prima di buttarmi dal tetto e cadere su una cresta critica al reietto. Il mio funerale sarà perfetto, non ho nulla da dire. Paghi anche quando muori, quindi Adria non deve morire. Vorrei partire per destinazioni lontane. Troppo malvagio questo mio vuoto interiore. Quando vedo tanta bellezza i miei occhi diventano a cuore. È un eco lontano che tu non puoi udire. Oggi brindo per non impazzire. Dammi contanti e faccio girare l'economia. Dammi rimpianti e gira che rigira attorno a casa mia. Sofferenza e disperazione riempono il reiettone. Rime semplici e dirette, fanculo Israele. Questo è il mio modo di dimostrarti quanto cazzo ti voglio bene. Sto spremendo vomito dalle vene per avere delle catene. Se parlo con gli asterischi bucami con un cacciavite a stella. Sei un mammoccio tatuato con una fila di plastica tatuata pure bella. E se in fondo ho incominciato per avere degli amici, si schiuderebbe il mio sorriso se bruciaste tutti vivi. Se ti scherniscono tu ridi, perché loro sono tanto più infelici. Antiporno! E se in fondo ho incominciato per avere degli amici, si schiuderebbe il mio sorriso se bruciaste tutti vivi. Se ti scherniscono tu ridi, perché loro sono tanto più infelici. Antiporno! Lupo Nero, Summer Spugo. Yeah. uno sfacelo e l'altro, Vito, ciao Vito, della Wrong Disc Records, mi ha condotto in un festeggiamento, dove era il suo compleanno, tra l'altro, in cui suonavano tra gli altri Mentecatti anche questi Dark Tennis da Bergamo, che dediti a un metal estremo, death metal, grindcore, che madonna era, non lo so, intitolato Wimbledon. Questo era l'EP che presentavano. Da questo EP abbiamo ascoltato adesso il brano Bird Photographs. Loro erano i Dark Tennis. E ora passiamo ai Dawn of Ashes. Dawn of Ashes, che sono una band industrial metal. Più industrial, agrotech che metal, non saprei, da Los Angeles, California. Loro ci danno a fare da un po' di anni, dagli anni 2000, dall'ultimo album Reopening the Scars. Ascoltiamo il brano How Dead Is Your Hope? Quanto è morta la tua speranza? Chiediamocelo. Dawn of Ashes. Sammersburgo. una vita passata a chiamarli Clock DVA e sarà dura per me accettare che in realtà la pronuncia corretta è Clock DVA. Io credo che i loro amici a Sheffield abbiano comunque sempre detto Clock DVA, quindi faremo finta di niente e ogni tanto mi uscirà Clock DVA, ma fa niente. Per la loro produzione semi privata Rizosfera è uscito da poco un nuovo album intitolato Ext Volume 1, non so che esattamente che cos'è che raccoglie, però tra i brani nuovi che ci hanno proposto c'è questo Time Whirlpools che era bello. Beh, già. Ora passiamo a tutt'altro con i Kickin' Valentina. Kickin' Valentina sono una band di hard rock da Atlanta, USA, una roba proprio zozza, tant'è che prenderebbero il nome da una pornostar che pia calci sulle palle i suoi partner, così dicono, almeno così raccontano questi Kickin' Valentina, che nonostante gli americani, ovviamente non si ricaga nessuno, sono usciti per un'etichetta danese intitolata Mighty Music, per cui hanno pubblicato questo ultimo album Star Spangled Fist Fight, da cui ascoltiamo il brano Fire Back. Kickin' Valentina. Spurgo. la delicatezza con cui si propongono i Full of Hell è sempre sorprendente, anche se questo fondamentalmente era un po' il loro brano da discoteca, da come ci avevano abituati, questo è quasi accettabile. Da Ocean City, Maryland e Pennsylvania, USA, i Full of Hell hanno fatto un casino della Madonna da quando si sono formati, fondamentalmente nel 2009, e da quest'ultimo album, innumerevole, album Coagulated Bliss, abbiamo ascoltato questa simpatica canzoncina intitolata Fractured Bones to Mecca. Erano i Full of Hell e ora siamo giunti al termine anche di questa puntata di Lupo Nair Summer Spurgo e ascoltiamo quindi una robetta molto rilassata così per congedarci. Il brano è Sweet Sensation dei 6th June, una band croata, di Berlino ma originaria di Belgrado, che in collaborazione col pianista Andy Pavlov ha realizzato alcuni brani che sono stati utilizzati nella serie TV Nemirny, che penso che sia una storia thriller, una roba crime, non so nemmeno di che nazionalità sia questa serie. Comunque da questa serie c'è la rielaborazione di un vecchio brano dei 6th June intitolato Sweet Sensation insieme a questo Andy Pavlov. L'ascoltiamo e ci salutiamo a, credo, giovedì prossimo con Lupo Nair Summer Spurgo. Luponer Summersburgo. Mi sono scordato una cosa importantissima che fa molto anni 80-90. Miau.